ovviamente io c'ho un portatile collegato con una base magnetica, non sono a casa adesso, da niente. Ma questo è 9.10, sì. Bene mera, perché sto provando come va in macchina questo portatilino. Va bene. Ok, meglio così, perché ancora non avevo avuto possibilità di avere riscontro, perché avevo cambiato anche l'antennino della base magnetica, quindi adesso ha un'asta un po' più lunga e va bene. A casa non ho problemi perché ho un'altra apparecchiatura fissa, io ho ripreso da poco a ritrasmettere, quindi anche io mi sta cominciando per la prima volta, Daniele. Io solitamente mi metto da casa, via non messo le auto. Va bene, è positivo dopo tanti anni che non trasmettevo, un po' ti rimane la passione, quindi ho detto che riattivo tutto e buonanotte, ho comprato qualcosina di nuovo, non di eccezionale ovviamente, giusto per riprendere e magari sentire un po' di gente. Fatto bene, dai. Fatto bene, anch'io, ho parlato tutto, mi rivendo tutto e ho comprato tutto la casa. Io ho preso un Albrecht 5890, quello omologato della, diciamo, Midland, pare che vada benino, c'è anche le bande laterali, a casa ho un dipolo messo in polarizzazione orizzontale, va bene, il rosso è buono, uno è un po' dappertutto, forse anche meno di uno, sul 20, sul 40, sul 10 l'ho provato anche in banda FM, AM, bande laterali, non mi sale per niente il rosso, quindi diciamo che l'antenna va bene, quella di casa. Bene, così, dai, bene, sono capolino di 5 ottavi. Allora, la curva turbo è lodata, 30 anni fa, però adesso sto curvando questa, la si comporta egregiamente anche lì. Solitamente io su 10 qualche volta riesco a sentire le poche persone che sono rimaste, su 10 la sera e il pomeriggio solitamente dalle 18.30 alle 19.30 fino alle 20 c'è sempre qualcuno che fa la ruota, insomma qualche volta entro perché spesso ho i turni quindi non mi corrisponde la serata, di giorno è difficile trovare qualcuno su questo canale. Posso dare un riscontro esatto, dalla mia posizione mi arrivi una radio molto molto chiara e segnale a fondo scala al massimo, sarà un 9 più 30. Calma, meglio così, dai, guarda che c'è una vibrazione bella chiara, pulita, che ci siano rumori strani sotto. Io diciamo tenevo lo squelch un po' alto perché c'era un po' di QRM in fondo, quindi ho visto la portante eccetera, ho schiacciato, pensavo di non essere sentito, invece mi è capitato tu, è meglio così. Sto aspettando mia figlia che rientri e quindi sono fermo qua che la sto aspettando. Magari più tardi se fai qualche chiamata o bussata sul 10, già ci sentiamo da casa, magari mi sentirei anche un po' meglio così. Già va bene. Se ci sono dopo, già faccio chiamata sul 10 e vediamo un po' chi risponde. Diciamo che a volte riusciamo a fare anche qualche ruota con una decisione. vissuto c'è della Citizen Band? Quando è superfitto? Sì, più di uno, magari molti ce l'hanno ancora, attaccano, ascoltano, non entrano, però ogni tanto qualcuno si sente, meglio così, chissà che si ripopoli nuovamente. Adesso magari dai, escono le targhe, comincia ad esserci più freddo, più uscire, quindi la sera non c'è da fare, ti fa piacere con la radio, dai. Infatti sì, solitamente d'inverno con le brutte giornate come quella di oggi si sta più a casa. Stamattina che rientravo da lavoro lo stesso ho acceso questo portatilino e ce l'ho sempre in macchina e niente, ho sentito Giulio da Lippunti, però lui mi sentiva molto male nel mezzo a QRM, quindi poi alla fine ho chiuso tutto, sono arrivato dentro Sassari e ho perso, cioè lui lo sentivo ma a me non mi copiava più. Ma che antenna stai usando in DM? Guarda, adesso c'ho una antenna Sirio, diciamo quella non è troppo lunga, adesso non mi ricordo il modello, sono vecchie antenne che avevo in garage e non mi ricordo bene però il modello, mi ricordo che della Sirio e ne ho un paio così, una più lunga, sempre che fanno da 26 a 28 MHz. Grazie, dai. Ok Giulio, ti saluto, ci sentiamo magari più tardi, magari quando rientra a casa fai chiamata sul 10, mi senti là. Va bene, dai. Se ci ascoltiamo loro, prego, probabilmente con tutte le piscine. Per il rosa, questo è un pezzo, dai. Sono tirato per i ciuffi, si può dire. Va bene, dai, ma probabilmente con tutto, dopo c'è il cibo. sei avanti? Va bene, mi senti? Sì, però sei basso di radio. Hai ragione anche tu. Eccomi qua. Adesso ci sono? Ma sei tutto a fischi. Sì, lo sento a te. È sparito tutto, vero? Sì, cosa è successo? Come la radio? È tranquilla ora? Così, un po' brrrr. Come brrrr? Non è la solita. Sì, adesso si fa, c'è stato un attimo, sembrava tipo ribollendo. Prima che sganciassi, perché oggi sono con nuovo, sono modificato, ho capito, quindi queste cose sono un po' inevitabili, dato la complessità del tutto. Cosa vuol dire modificato? Un altro apparato o qualcosa? Uno me ne rimaneva, che era isolato, poverino, che guardava gli altri con invidia, perché loro facevano tutto e noi non facevamo niente, quindi ha detto vabbè, da, in un momento di pazzia l'ha perso e l'ho modificato. Ma tu parli di microfono o di che cosa? No, di quel lavoro che devi fare tu, di metterlo online per la decriptazione, decifrazione, registrazione, trasmissione, track. E l'apparato che cos'è questo? Il povero Lincoln 2, che veramente è stato un bagno di sangue, perché adotta la tecnica dei micro SD e quindi addirittura con le cuffie l'ho dovuto fare, con le cuffie c'hanno gli occhiali e doppia lente, quindi ci fanno una componentistica grande, solo che poi vedi la punta del saldatore è enorme. Ma ti sei messo a sostituire componenti perché? No, quello non si può fare, lì ci vuole non so come si possa fare, perché sono talmente piccoli che bisognerebbe buttare via l'apparecchio che si fa prima. No, mi sono messo a saldare sui componenti, che è diverso, con la massima attenzione ovviamente, perché ha un rischio. Mi pare che vada, ecco. Io ti ascolto bene, perfettamente, il segnale è tuo solito, quasi 9.30. Ascolta, puoi fare qualche prova, ma non qua, sennò è un disastro. Passiamo sotto. Aspetta un attimo, c'era qualcuno che stava chiamando. Avanti, chi chiama? Attenzione, che chiama su 10? Vabbè, non ne ha voglia, è un segnale forte, 9.15. E dove andare, perché? Ah, un canale sotto, perché sennò qua proprio non se ne possono fare qua. Fai uno sotto l'uno, fa anche rima. Dimmi la frequenza. 5-5, 9-5-5. E ci sei 9-5-5? Capa. Ci sei già, fra. del segnale o modulazione? Buonasera. No, dai, che vai bene. Qui, buonasera, Barracuda da Ussi. Buonasera, l'ho fatto. Sì, Santiago 7, Radio 5, appena la voce un pochettino bassa. E sì, buonasera, che ho fatto e ben sentita. Vabbè, dai, spero che non ho fatto. Ah, ma non per quello, forse o c'hai, diciamo, il microfono, il mic un po' troppo lontano dalla bocca, ecco, no, esci benissimo. Durazione Sassari? Ah, però non si sa che è forte. Ho capito, scusa, ma cos'è che è forte? Ma la modulazione è forte. Ah, la mia? Allora provo ad abbassare, guarda un po' se va bene così. No, va benissimo, troppo bene. Ah, grazie, no, stavo provando perché non devo riprovare. Niente, sembra che stiamo andando un po' bene, dai, va bene. Stai dicendo moduli da Sassari, zona Sassari, è la prima volta che ti sento. Scusami, non ti ho copiato. Itebara. Queste discoteche oggi come stanno? Buonasera Claudio, ma se non ho capito male dovrebbe aver aperto il Dolce Vita, se non sbaglio sabato, però è il numero chiuso, poi ci voleva il Green Pass, in più bisognava telefonare per l'appuntamento, dunque ancora non è come i vecchi tempi, dunque numero limitato alla fine e anche a prenotazione. Buonasera Claudio, avanti. Ciao Antonio, buonasera, buon ascoltato. Sì, non deve essere vicino a me che l'ho fatto, io non ho mai sentito sicuramente la moglie di qualcuno, perché 9 più 20 qua. Buonasera Cleopatra, Claudio Sparviero, dalle alture di Serra Secca. Buonasera Sparviero. Dove stai parlando? Sei nella mia zona? Nella zona del mercato, sto. Ah, impossibile. Sono marcato a Sassari con questo segnale, no, non ce n'è, non so, vabbè, comunque, sì, troppo alta per essere andato a mercato, perlomeno qua da me, perché qua io sono fuori Sassari, quindi è così. Io a me arriva là, dalla zona nella portata mia, Santiago 7, Radio 5, alla fine. Aspetta un secondo. No? Ok. Tu sei 9, Radio 5. E sto pilotando il Bimbo 131 con un Vatel. Va bene, ottima radio, bella, potente, forte. E Cobra con l'MP più 4, ma non basta ragazzi. E guardate, perché sono le regole, a un Watt o a 5 Watt? L'ho messo a un Watt per provare. Lascialo gai, non tocca. Cleopatra, c'era negli anni 80, ma Cleopatra però sicuramente non sei tu. Allora Marco, com'è la 27 adesso? Com'è la 27 adesso? 4 gatti e 4 topi. Meglio, va bene. Non c'è rimasto più nessuno, pochissima gente e basta. Vabbè, pochi e buoni. Non sempre, no. Anche se siamo pochi c'è sempre qualche imbecille di turno, c'è sempre. Ogni tanto ci scanniamo, dai, forse per, come si dice, per tagliare un po' la routine alla fine, ma poi dai, alla fine poi per che cosa? Un piccolo passatempo sano, dai, che comunque qua in zona, o perlomeno in Italia, tra virgolette un po' scomparsa, invece in altre parti del mondo è bella, attiva e viva. Fortunatamente, basta sentire la propagazione, ma lì si vede che ancora la radio è viva, ecco la fine, dunque. Resistiamo. Ma... non sempre si ride e si scherza, a volte ci si scanna pure, però in questo periodo, ti ripeto, siamo talmente pochi che c'è poco da scannarsi. Ma sei in macchina, perché il segnale è calato. Sei col camper? Piazza dei segni? Vabbè, sto girando ancora sulle parti. Perché ho visto qui sei praticamente di fronte a me. Io sono su in alto. Monte Bianchino praticamente, nella vallata di Monte Bianchino. Bene, bene. sei sopra di te, guarda, sopra di te, proprio in alto di te, già va bene comunque, già non ti sento bene, tu già mi senti bene. Va bene. Via. Quindi Antonè, bella di Eva e burro, mamma mia come sto, tutto il giorno rinchiuso in casa, sono riuscito a uscire 10 minuti, cani che abbaiano, 10 minuti e boh, sta di nuovo piovendo. Volevo chiedere, Cla, qualcuno bravo dove si può portare il Galaxy a riparare? Ma qua a Sassari, no, ce n'è tecnici qua a Sassari, no, Antonè, non ce n'è, non c'è rimasto più nessuno, capito? Vittorio Giove non so se ne stia facendo, ma è lungo come il mese di maggio perché è pieno di lavoro e quindi è un casino. Quello è il problema. Oppure trovare qualcuno onesto che lo ripara onestamente, là. Qualcuno pratico ancora, perché lo vorrei portare a riparare, ma è a chi chiedi qua, perché sono riparabilissimi grazie a Dio, già tutto si può riparare, però non so a chi chiedi, sto facendo un giro su internet, ma non ho trovato niente, la verità, di qualcuno che possa, che si possa spedire e riparare, ecco. Non lo so, Anthony, non lo so, non so indicarti niente perché a dirti una fesseria. Non lo so, che cosa c'ha di guasto, qual è il problema? In poche parole, quando lo accendi, va direttamente in 26, quando vai a commutare rimane sempre in 26, per andare in 26, in 27, nella modalità mod, no? Dove ci sono AM, USB, USB, devi manovrare la manopolina diverse volte finché poi non gli viene la voglia di andare in 27. Ma è quello, è la verità, il problema più rompiscato, ed è un casotto, tutto lì. È la radio di Silvestro, ti ricordi, di Porno Torres? Sì, no, io ce l'ho il Saturnetto, ma è nuovo. Ho comprato a Danilo, nuovo, di pacca, veramente nuovo, funzionante, perfetto. Non mi ha mai creato problemi. Assolutamente, quando me l'ha dato c'era un rumore di alternata sul trono di recensione, non in trasmissione. L'ho aperto, ho detto, vediamo se è qualcosa che posso. C'erano completamente i bulloncini del trasformatore tutti mollati. Quindi li ho tutti stretti bene e non l'ha più fatto. Basta, l'unico problema che ha avuto. Il resto è perfettamente funzionante e esce anche molto molto bene. Se vuoi te lo faccio anche sentire. Quindi l'unico problema è quello, però la radio funziona. L'unico problema quindi è il selettore di banda, che ora ci siamo andati in tilt. Esattamente, sì, esattamente. Ma sai quanto devi manovrare finché poi si decide andare in 27? E poi lo tocchi appena cambi USB, ok, ritorni in AM27, o vai col 26 punto non so che cosa, sì, quello lì è. E poi alla fine... sistemabile anche quello che sicuramente è sistemabile, una piccola lineata, una controllatina generale e ciccia, e lui sta di nuovo funzionando, capisci? Microfono originale, esteticamente messo benissimo, solo quello, ma prima però lo troverò perché non è un peccato lasciarlo così, ecco, tutto lì, una bella radio. Una bella radio sì, in effetti io ce l'ho e funziona perfettamente bene. Il selettore di banda è andato a farci forte lì. Bisognerebbe cambiare prima il selettore di banda e poi vedere se ci sono altri problemi, ma se stai dicendo che la radio è funzionante, sicuramente è solo quello. Vabbè, se mi viene in mente qualcosa ti avviso, ma sappi che qua c'è sarì. È tabù totale. Avanti Cleopatra. Cosa ci fai col campo di giro che sta piovendo? Fare un giro panoramico? Ma sei di Sassari? No. Guarda, sei curioso. Beh, la radio è fatta per questa, se io sto parlando con una persona devo capire se è di Sassari o non è di Sassari. Che domande sono? Non ti sto chiedendo quanti soldi hai in banca. Vedi, te la ridi anche, quindi. Io sono nato a Porto Torres, ma abito 40 anni a Sassari. Io ho detto dove sto trasmettendo, quindi penso di non avere fatto niente di male, se lo ce lo vuoi dire, lo dici, se no ho fatto il tuo, non è che metterci più di tanto. Vai Antonio. K, là, giustamente, la curiosità non è solo donna, è anche uomo, c'è poco da girare, dunque, anche anch'io ho chiesto, ma la prima volta che lo sento, giustamente, ci si cerca di familiarizzare, poi non c'è niente di particolare, ecco, tutto lì, sono di Rossi, ho 19 anni, giovanissimo, e andando. Eh sì, la cosa, tanto tempo fa gli avevo 19 anni, sarebbe bello, alla fine. Scusate un attimo che mi stanno chiamando. Magari, avessi 19 anni, avessi saltato il muro di cinta a una gamba. Perché sei sparito, non hai sceso il segnale? Perché sicuramente avevo spento il... Vabbè, sei sceso il segnale perché stavo uscendo a un watt. Aspetta a vedere un po'. Guarda, così è un watt, la 1, 2, 3, prova. No, è da Santiago 2 a Santiago 7. Da 2 a 7, è un watt. Va bene, però, infatti ho visto che sei calato, ho detto, ma cosa è successo? Rico? Ia. Davvero, che cosa c'è? La forza è molto... Perché sto usando un microfono preamplificato da tavolo che si chiama MC60 della Kenwood. Io non nascondo niente, per quello che la voce sembra da orco, ma non sono un orco. Esagerato. E così dicono, c'è la voce da orco, ma io non sono un orco. Ma questa vecchia anche peggio, a volte non c'è nessuno, adesso perché ho sentito Antonello, ci conosciamo di persona, sono entrato a darle un controllo che stavo approvando, se no non c'è mai nessuno. L'ho già detto, non c'è più nessuno, proprio è difficile la sera poi trovare, forse io non entro quasi mai, entro pochissimo, ma la sera puoi trovare magari due o tre persone in radio, non è più come prima, in un canale, in questo canale, solo in questo canale, negli altri non c'è nessuno. Vabbè che c'è la nuova tecnologia, esatto. Sì, c'è la tecnologia, ragazzi, la tecnologia, a me poco mi interessa, guarda, io non navigo al computer, non uso il telefono, non me ne frega proprio un accidente. Certo che sì, se va avanti sì. Anche tu dalla voce non è che sei ragazzina, comunque. Va bene, io vi saluto, vado a mangiare una pizza. Ciao Cleopatra, è stato piacere ascoltarti. Buona serata, buon tutto, quando voi siamo qua. Ciao ciao. Buonasera Fabiera e salutone a Panacca. Va bene, lo saluto io Antonello che ha il telefono, ciao ciao. Io ci sono, sì, aspetta. Cos'è qua? Sono al telefono. Ah ok, no, perché ero con Gianfranco, stava facendo delle prove. Vai Gianfranco. Eccoci qua. No, c'era anche un attimino Claudio, ha risposto via al telefono adesso. Vediamo se ci ha riseguito qua il signore Portante. Oh, non ti faceva niente, però sentivi un colpettino leggero strano, poi questo. Io dico, se vuoi entrare partecipa. E cosa vuoi che ti dica? Entrare nella testa della gente non è così semplice, no? È una cosa molto molto difficile perché è così. Dunque, quindi qua sono a posto, niente, quindi non possiamo che altro che rimanere in attesa che tu riesca a partorire. Sì, l'ho fatto fare l'ora a Luca, mi ho detto sabato, con Claudio l'abbiamo portato a fare quel lavoro, un abbassamento di voce, un lavoro di pulizia, di sistemazione e di installazione del programma. Windows 10 con gli aggiornamenti relativi. Sì, sì, fa tutto lui, Gianluca è già esperto in materia, sa come intervenire, poi si fa tutto quello che si deve fare. Anche se mettono Portante, dubito che fermare uno di quei sistemi sia così facile, perché hai sentito quanto è penetrante. Ti fa sordo, è fastidioso pure, che è questo? Avanti. avanti, se c'è qualcuno che può entrare, avanti. Non parla più. Oggi stamattina si è acceso un attimino, c'erano i russi, arrivavano 9+20, questo qua è una potenza spaventosa. Sì, sì, io guarda, ho messo per provare questo in ricezione, perché ovviamente funziona anche in ricezione, l'ho messo su 28 in 10 metri, guarda, mi è apparso mezza Europa, cioè dovevano essere anche gli Stati Uniti, mezza Pisa, con quel sistema antipatico, quello che veramente si assorta, quella grattugia ininterrotta, che però io, a me non mi piace, perché fa tutto da solo, cioè tu metti la radio, te ne vai e quella si fa di exarasura, non so a cosa possa servire una cosa del genere. Ma la facciamo un attimino di bianco, vediamo, qualcuno vuole entrare sul 10? Buonasera. E buonasera, ciao Carlo, in compagnia mia e di Gianfranco. Avanti Gianfranco per il saluto. Sì, ciao Carlo, buonasera, ben ascoltato. Buonasera, in questi giorni non c'ero fuori per lavoro, sono rientrato stasera operativo, ho fatto qualche provina col portatile questo pomeriggio presto, ho sentito Daniele, trasmetteva da Via l'Italia e spero di risentirlo anche lui qua su 10. Daniele da un po' che non entra, cioè, prima era più assiduo, dai. Ok, ma vi conoscete persona con Daniele? No, a dire la verità no, ci eravamo sentiti qualche tempo fa per radio e anche lui mi ha detto che ha ripreso proprio in questi giorni a ritrasmettere, infatti stava facendo delle prove e ho sentito che insomma chiedeva un controllo e quindi ero fuori macchina e gli ho risposto, però ero fermo quindi mi sentiva bene, poi ha perso il mio segnale perché in mezzo ai palazzi non riesci più a raggiungere insomma le altre radio che hanno l'antenna sul tetto. Prima vai già a far per Carlo. Ogni tanto si sente che commosso. Sì, comunque mi arriva abbastanza bene Claudio, senza problemi. No, Claudio, Carlo volevo dire, mi confondo sempre a te Carlo. Un problema Gianfra, siamo tanti, qualche doppione c'è anche tra chi frequenta il 10, per cui è facile sbagliarsi. Ma tu hai messo un microfono diverso, sta utilizzando da solito Carlo? No, sempre lo stesso, sempre lo stesso microfono originale della radio. Ah ok, no, sembrava forse non sono abituato, diciamo, a sentire magari c'ha una tonalità diversa da quanto mi ricordavo, dai, come non detto. C'era anche Claudio Torre di Controllo, vediamo se è entrato. Claudio sì, era al telefono. Ok, vediamo, quindi siamo in tre, Carlo, Gianfranco e Roberto. Di nuovo a te Gianfra e Mike. Avanti. Che chiama, avanti. Mi sembrava una banda laterale però, strano. No, mi sembrava uno che voleva imitare un francese, ma non c'è riuscito. Ascolta Roberto, ti volevo chiedere una cosa prima che mi dimentichi. Tu le conosci queste carte dati della Twing, una cosa del genere? Non hai mai avuto occasione di provarle? Non ho capito, casse dati, così è? No, carte SIM dati, ecco, SIM dati. Le vendono anche su Amazon e sono praticamente delle SIM gialle che si utilizzano solo esclusivamente per dati, a livello internazionale sono. No, sinceramente non sono molto addentrato in materia, ma non le conosco. Vediamo a Carlo se lui può dire qualcosa. Le conosci tu Carlo? Sì, positivo, io ne ho una perché praticamente ho un rilevatore satellitare nella macchina e quindi ce l'ho, diciamo all'inizio non è stato tanto semplice inizializzarla, però poi alla fine sono riuscito e diciamo le puoi usare per videosorveglianza, per le telecamere, hanno solo la connessione dati ovviamente e si possono inviare e ricevere messaggi, però costano troppo quelli, però se la si usa solo con la connessione dati allora va benissimo. Anche io l'ho presa su Amazon, ne avevo preso un paio, una per me e una per un amico, diciamo che ce l'ho e va molto bene. Sono Things mobile gialle come ha detto Gianfranco. Ecco, è proprio questo che mi interessava sapere. infatti lo usano anche per, proprio per quella funzione prevalentemente del GPS, per mandare, per ricevere dati, radiolocalizzazione. E niente, tu c'hai quella, poi mi dirai dopo che riprende Roberto, tu c'hai quella praticamente che ha ricarica mensile, o meglio, o l'altra che ha consumo, quindi oggi consumi 10, poi l'altro anno ne consumi altri 10 mega e cose di questo genere, giusto? Poi mi rispondi dopo che riprende Roberto. No, parlate voi, che è interessante il discorso, voglio capire. Avanti Carlo. Allora, si chiama Things Mobile, scritto THINGS Mobile, SIM card solo dati. Praticamente c'ho un piano a consumo senza canone e costa 0,12 a megabyte. Adesso ti dico della ricarica. Ricaricarla, purtroppo la prima ricarica costa 30 euro, però io l'ho ricaricata almeno 5 mesi fa e ancora ho 9 euro di credito, per cui consuma veramente poco, quindi con diciamo 30 euro, se si usa solo con la connessione dati, può arrivare sino a un anno e mezzo, insomma. Ovviamente purtroppo questo riguarda il consumo dei dati che hai, non passa la cioè non si collega, diciamo, al servizio telefonico, questo è certo, a me non mi interessa quello, però la cosa che era interessante è se era, se poteva veicolare i cosiddetti portatili POC, che io ne ho alcuni, normalmente vanno con qualsiasi volant, però sarebbe stato interessante vedere se una scheda del genere, dato che nel quadrante delle SIM dovrebbe essere comunque la più economica, poteva fare comunicazioni di quel tipo, tutto lì, perché non ti danno indicazioni, sì, telemisure, controllo antifurti, controllo telecamere e così via, però poi su questi POC nessuno dice niente, forse perché sono sistemi molto, molto particolari, ecco. Riprenderò bene. Una domanda, vedo che state parlando, potrebbe essere interessante, si può usare, Carlo, quindi in video sorvegliata, se c'hai una telecamera in campagna, per fare un esempio, la tieni con questa scheda qua e in diretta ti puoi guardare 24/24. Consumo è alto o non è consigliabile utilizzare quel sistema? Allora, se si usa solo sfruttando la connessione dati, una ricarica ti dura anche un anno e mezzo, quindi il consumo è veramente basso. Io l'ho messa in macchina, avevo fatto la prima ricarica da 30 euro, perché purtroppo non ti fa diciamo caricare 10 euro o 15 euro, purtroppo la ricarica minima è 30, però ovviamente ho dovuto fare delle prove, quindi inviavo dei messaggi, ne ricevevo di risposta dal dispositivo che ho installato nella macchina, per cui ho consumato, diciamo, più del previsto quei messaggi. Però se non la si utilizza per inviare messaggi solo sfruttando la connessione dati, come il caso tuo, registrare, controllare la registrazione eccetera, allora il consumo è veramente molto basso. Sì, quindi è interessante questa questione. La scheda di per sé quanto costa? La scheda costa poco, io mi sa che un paio di queste schede le avevo pagate meno di 10 euro senza spese di spedizione, e comunque c'è il sito ed è www.thingsmobile.com, però la gestione è tutta da Milano, anche se il .com ovviamente ci porta a siti internazionali, perché comunque è una scheda che funziona in tutto il mondo, per cui uno ovunque si sposta, Things Mobile c'è in Australia, negli Stati Uniti, nei paesi del Medio Oriente, un po' dappertutto, perché io avevo visionato e quindi mi ero informato eventualmente spostandoti, se puoi togliere il dispositivo, metterlo su una macchina che prendi prendi in affitto, eccetera, e si può fare tutto questo perché hai la continuità anche non solo in Europa ma anche nel resto del mondo. Non costa molto, ecco, molti la utilizzano per la videosorveglianza di telecamere e apparecchiature del genere anche. Adesso c'è qualcuno che vuole entrare, avanti, che vuole entrare. Buonasera a tutti, buonasera. A me ti conosco già tanto, ho sentito boom boom colpetti nel portale, con quel compagnia mia Riccardo di Gianfranco. Facciamo venire avanti a Gianfranco per i saluti. Sì, ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. Poi Carlo ci dirà, poi ti metto a Carlo così fai saluti Antonio. Carlo, ti volevo dire che con la videosorveglianza presumo che comunque sia pesantissimo, perché siccome io ce l'ho, però è per dati diretti, essendo immagini, avendo un volume parecchio grosso, probabilmente sotto quel punto di vista se ne ciuccia parecchio di dati e quindi porta via tanti soldini sicuramente, senza consumo. Riprendi Carlo per i saluti a Antonio. Buonasera Antonio, ben sentito. Niente, in compagnia così di Gianfranco e adesso mi sono perso. Gianfranco e Claudio Roberto, chiacchierando su una questione di traffico dati di schede, diciamo tipo telefonia mobile, insomma. Sì, lo so. Ce l'avevamo anche noi in deposito la roba lì, c'è una sim da mettere e ti trasmette le cose di antifurto. Sì, esatto, molti so che la utilizzano in tanti, questa della Things Mobile, perché l'impostazione, ripeto, è un po' all'inizio antipatica, complicata, però poi una volta che uno prende confidenza dell'interfaccia che c'è su internet, si può scaricare anche sul telefono, per cui uno può seguire tutto quanto da casa. Io ho una piccola applicazione che praticamente mi dice la posizione della macchina, dove l'ho parcheggiata, se qualcuno me la ruba la identifica subito, insomma l'ho presa per quel motivo. Ciao, una cosa bella perché cioè, te lo dice in tempo reale, cioè dove sta andando. Pronto, quando si è nascosto bene il marchigegno non lo sa nessuno, almeno imparano. E molti gli hanno pizzicati, molti che si sono avventati a rubare, non qua in Sardegna, fuori, che si sono avventati a rubare la macchina, l'hanno beccati e non sapevano c'era il dispositivo. Sì, esatto, sì, però Roberto mi chiedeva se usata così per videosorveglianza, telecamere, se il consumo fosse elevato, eccetera. No, non credo, perché se è solo consumo dati, ripeto, solo consumo dati e non si usa per inviare e ricevere messaggi, perché fa anche questo, il consumo è veramente irrisorio, è basso e costa poco veramente. Quindi hai risposto a Gianfranco, hai seguito Gianfranco? Guarda, siccome io mi occupo tra altre cose anche di quelle cose lì, di norma la videosorveglianza, perlomeno quella che uso io, se va bene diciamo un controllo saltuario così per vedere cosa sta succedendo, previo ricevimento allarme magari, allora può anche andar bene, ma se devi vedere i video, quelli sono pesanti, sono molto molto pesanti, anche se hanno una forte compressione. Quindi presumo che con l'attività sia solo magari per chi ha possibilità di spendere parecchio, mentre invece per gli altri servizi, tipo far scattare un allarme, aprire una porta e così via, sia molto più molto meno costoso, un segnale GPS è un nulla, è una stringhezza che in confronto a una videosorveglianza è 100, forse anche 1000, 2000 volte inferiore al peso che può avere un'immagine. È un po' lo stesso discorso che facevamo prima sull'utilizzo di quei programmi, vabbè, che finché è roba piccola la puoi mandare, ma quando è roba grande ci impiega un bel po', tutto lì il problema è quello. Magari qualche foto te la può mandare tranquillamente. Ok, e a te Roberto. Sì, non lo so, io sinceramente non conosco il sistema, se magari hanno tariffe più economiche rispetto alla telefonia normale. Quello che voglio chiedere a Carlo, l'interfaccia, cosiddetta interfaccia, quella dove metti questa scheda che ti tiene in macchina, la devi alimentare con la batteria, basta una batteria normale a 9 volt, non lo so, o deve avere per forza un'alimentazione dalla macchina a 12 volt? Allora, io il dispositivo praticamente l'ho nascosto perché è piccolino nello sportello dove ci sono i fusibili. Ovviamente deve rimanere sempre alimentato, nel senso che se la macchina è ferma, rimane disalimentato, però una volta che la macchina si accende, basta girare il quadro, praticamente io ho individuato il fusibile del quadro e ho messo uno sdoppiatore di fusibile praticamente, quindi ho collegato il negativo e un positivo alla chiave, al quadro, quindi quando io giro il quadro in posizione stereo accendi sigari, lui è già acceso, per cui una volta che questo è acceso, supponiamo mi rubano la macchina, qualcuno accende collegando i fili o con un doppione di macchina, io addirittura dall'applicazione di questo dispositivo posso mandare il blocco benzina, quindi lui magari riesce a fare massimo 10 km e poi si ferma, capito? Il motore, perché agisce sulla centralina pure. Oppure si può disabilitare questa funzione e inserire quella, per esempio, di inviare, sicuramente invia anche il messaggio appena si muove la macchina, perché io l'ho provato una volta, ho preso la macchina a mia moglie, l'ho lasciato attivo e quindi subito mi ha mandato il messaggio perché vedeva che l'applicazione era ferma su un cellulare in un'altra posizione, mi ha mandato il messaggio, io ovviamente sapevo che la macchina l'aveva mia moglie, quindi ho potuto provare che funziona bene il dispositivo, però possibilmente va quasi sempre alimentata, c'è chi preferisce collegarlo direttamente alla batteria. Sì, diciamo, vabbè. Volevo dire, ti dà la posizione e anche la traccia del movimento della macchina? Tutte e due, ti dà la posizione quando la macchina è ferma e poi anche tutto il tracciato che fai, perché io mi sposto tra, diciamo, zona Luna e Sole, aeroporto di Alghero dove lavoro, insomma, Bonorva dove vado nei fine settimana, quindi si può impostare un recinto di dove la macchina gira nelle, diciamo, più o meno nelle solite zone. Quando esce anche fuori da quel recinto, lui manda il messaggio e fa vedere il tracciato, ovviamente, se la macchina dovesse venire rubata. Certo, interessante, naturalmente, se c'è qualcosa di valore, se c'è un appunto delle certe fruscia, a quel punto non è. Ma se c'è una macchina di pregio o qualche mezzo pesante, autocarro, camper, cosa del genere, può essere interessante, soprattutto per il camper che ce l'ho io, può essere una cosa molto interessante. Ho visto che un video, come fanno a rubarle quelle macchine lì, hanno un disturbatore, appena entrano lo infilano nella presa dell'accendisigari, pum, e disturbano il GPS, non emana più niente. Sì, perché poi loro agiscono sulla corrente, quindi staccano corrente, staccano la batteria, quello a quel punto non funziona più. Però se si riesce a camuffarlo bene, nasconderlo o nel vano motore o dove ho fatto io, che proprio non si vede più, se uno non sa che c'è, rimane un pochettino fregato. Io l'ho messo non perché è una grande macchina, ma perché spesso mi capita di doverla lasciare in posti un po' isolati e magari dentro c'ho il decreto che mi serve per il lavoro, c'ho magari qualche documento importante che lo devo lasciare in macchina, per cui se mi rubano la macchina almeno riesco a rintracciare quelle cose velocemente. Capo, vai Giafra. Sì, però per togliere qualche illusione magari a chi ascolta ed è un furbacchione, attenzione perché quei sistemi hanno il backup, quindi anche staccando la batteria molti di quei sistemi continuano a trasmettere la posizione grazie alla batteria tampone che durerà un bel po' di ore. Quindi nella carta comunque una volta che ti è arrivato il segnale d'allarme che l'auto è in movimento, tu chiaramente c'è tutto il tempo di individuarla e mandarci di dover a recuperarla, ecco. Gli utilizzatori dello, non mi viene il nome adesso, insomma del disturbatore cosiddetto in italiano, che copre molte frequenze, è vero, quello lì lo può inibire perché si blocca praticamente tutte le comunicazioni radio per su una certa banda, e di lì può essere un problema, però insomma uno deve sapere che quel sistema è a bordo, poi deve sapere che come usarlo, insomma mi auguro che non ce l'abbiamo tutti, anche se lo vendono oramai cani e porci questo attrezzo. Riprendi Antonio. In genere chi fa queste cose è anche un pochettino poco esperto, magari ci può cascare e sono cavoli suoi. Poi posso fare, vabbè, allora io ho visto un video di videosorveglianza, un Mercedes Classe S, una macchina che porta un po' di soldini, di serie c'ha quel sistema di localizzazione satellitare. Sono entrati, hanno messo la chiave, quelle chiavi passepartout, quelle che tu tipo cassaforte che sollevi i pizzoncini, la chiave del Mercedes di sicurezza, perché c'hanno tutto il telecomando, ti avvicini e si apre senza bisogno di niente, hanno infilato nella serratura questi passepartout che te li regoli a seconda dei pizzoncini che ci sono dentro, che hanno il cilindretto. Come è entrato, ha messo nella presa dell'accendisigari, li ha buttato dentro tipo un accendisigari, in parole povere, gli ha infilato dietro, immediatamente inibito il coso, il satellitare, dopodiché si è attaccata alla presa OBD dove c'è tutta la memoria, le centraline eccetera eccetera, attaccato, ha messo in moto e se n'è andato, perché quelle macchine non hanno la chiave per mettere in moto, ci schiaccia il pulsante. Mi hanno portato, l'ho consegnato l'altro giorno in officina, una macchina, una Megane con la scheda, che io quando l'ho vista rubata ho detto non è possibile, l'ho trovata a Sorrenti, mi sembra, questa macchina qua, ed è la seconda che vedo, perché l'hanno rubata anche una Giulietta. E stavo parlando con quello di Alghero, che è numero uno sulle chiavi centraline, lui ti apre qualunque macchina, anche qualunque modo di, e stava spiegando come fanno a rubarle queste macchine. Ecco, la Giulietta ormai è talmente semplice da rubare, potrebbe staccare solo il boccassetto. Adesso c'è su internet questo giocattolino che costa 500 euro, dice quando loro lo fanno per lavoro per codificare le chiavi costava migliaia di euro. Adesso chiunque si compra questo giocattolino qua con 500 euro, attacchi, automaticamente va in ricerca sui codici della centralina, in pochi secondi, e parte la macchina. Sì, vabbè, quello è vero, sì, ci sono quei sistemi. Tutto sta, però molte macchine a quei livelli ce l'hanno anche di serie. Invece la macchinetta mia, che è una macchinetta modesta, e uno alza il cofano, vede che non c'è niente collegato, apre la scatola portafusibile e vede che non c'è niente collegato, perché non si vede niente, molto probabilmente si riesce a fregare, ecco, tutto lì. E, diciamo, è abbastanza semplice, ma allo stesso modo può fregare magari qualcuno non troppo esperto. Poi per quanto riguarda la facilità di duplicazione, di apertura chiave, quello ormai con l'era di internet è proprio vero, si trova di tutto, con poche migliaia di euro si riescono a trovare i programmi che decodificano tutte le chiavi praticamente. Sì, ma a me è meravigliato che c'è la scheda, la Renault c'ha la scheda, non è come le altre macchine, c'è la chiave di messa in moto o il telecomando che quando la avvicini manda il segnale, questa è con la scheda. Infatti è stato stupito anche lui, ha detto no, aspetta un attimino, qua hanno utilizzato quest'altro sistema, adesso bisogna rientrare. Gianfranco, ti ricordi il bullo tu? Sì, no, però come dicevo l'altra volta,